Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Ogni volta è davvero un piacere ritrovarsi qui e speriamo in tante ritrovarvi sintonizzate su questi liberi microfoni. Oggi in radio, vede, è una bella scommessa oggi dire chi c'è in radio, perché ufficialmente dovevamo essere io, che sono Caterina, Lucilla e Rosina, ma in realtà c'è Nancy che mi sta facendo compagnia e si è mossa a pietà perché mi hanno lasciato da sola. Allora, Lucilla purtroppo non si è sentita molto bene e Rosina sta girando nel quartiere disperatamente alla ricerca di un parcheggio. Comunque io confido sul fatto che prima o poi ne trovi uno. E poi più tardi, verso la fine della serata, dovremmo anche riuscire a fare un contatto telefonico con una nostra amica, compagna, studiosa, femminista e lesbica, che sicuramente potrà aiutarci a mettere a fuoco alcuni aspetti correlati a quanto affronteremo oggi. Più avanti vi sveleremo di chi si tratta, anche perché, sai, non essendo sicura di riuscirci, è meglio che non metto in mezzo niente. Vediamo, insomma, se ci riusciamo. Dunque, quella che sta per iniziare è la 254esima trasmissione di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione è possibile grazie alla collaborazione col martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che nelle nostre trasmissioni diamo notizie riguardanti il mondo delle lesbiche e delle donne con riflessioni che inevitabilmente partono dal nostro punto di osservazione e quindi esplicitiamo il punto di vista lesbico. Chiaramente ciò che diciamo potrebbe apparentemente risultare un po' scollegato da tutto quanto ci accade intorno. Ma la nostra scelta politica è quella di dare in questo contesto spazio e voce a chi solitamente ne ha davvero molto poco. Ciò non significa quindi essere estranee a tutto il resto. Nello specifico di questa sera riprenderemo una rubrica a noi molto cara e che nel corso degli anni ci ha visto parlare di molte donne, ognuna delle quali a suo modo interessante. Sto parlando della rubrica Donne e Storie e quindi stasera daremo risalto alla vita e alle opere di Dame Ethel Mary Smith. Chi ci ascolta con assiduità sarà che di Ethel Smith abbiamo già accennato qualcosa durante la puntata precedente, parlando del fuorisalone delle lesbiche di Milano. Cercheremo di fare un qualcosa di più approfondito questa sera. Dunque, come sempre, potete intervenire attraverso l'invio di vostri commenti al cellulare che mettiamo a disposizione per gli SMS. Ricordo il numero in modo che possiate prenderne nota e fate, insomma, almeno un messaggino. Siamo rimaste malissimo l'altra volta che non ce n'è arrivato neanche uno, quindi vi ripeto il numero, è 339-8536-270. Come sempre, poi, durante le nostre trasmissioni accompagneremo il tutto con voce di donne in musica e questa sera, se tutto va bene, avremo una compagnia particolarissima perché saranno proprio le opere di Ethel a fare da sottofondo musicale ai nostri discorsi. Ora, essendo lei una compositrice di musica classica, non ci pareva il caso di mandarne a posto delle canzoni normali, ma abbiamo deciso che, pur di farla ascoltare, l'avremmo mandata come sottofondo. A questo punto io mi devo necessariamente fermare, vorrei fare una breve pausa musicale e mandiamo... Dunque, mandiamo le Kick la Luna, che è un gruppo lesbico, con il brano Dark Street. Thank you. inside you only. Every noise is frightening, even the gate is crying in the yard. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do when somebody follows you? Hear the step just behind you. You move much quicker till you nobody here. Help a woman late at night who's screaming in the dark outside. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do when somebody do when he gets you, when he grabs you from behind? Feel frightened, lose your voice, your body becomes still. Totally helpless, totally lost, only Eccoci, quindi riprendiamo a parlare di Ethel Smith, perché davvero è stato molto emozionante conoscerla, diciamo così, quando al Fuori Salone delle Lesbiche sono andata a sentire il concerto Le Corde dell'Anima dentro la palazzina Liberty in un meraviglioso parco di Milano lo scorso 2 ottobre. Ho ascoltato con piacere il quartetto dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. E le quattro concertiste, due violini, una viola e un violoncello, hanno fatto ascoltare due composizioni da camera di Ethel Smith. Ma c'è stata un'altra cosa che però ha catturato la mia attenzione prima dell'esecuzione delle concertiste. E sono state le parole del direttore dell'orchestra Verdi, Rubens Gies, perché lui ha iniziato raccontando l'incontro che c'è stato tra lui e alcune delle organizzatrici del Fuori Salone, in base al quale, dopo alcuni incontri, si è convinto a realizzare il concerto, ma ha confessato che non conosceva il personaggio che le due donne del Fuori Salone avevano sottoposto alla sua attenzione. Intanto io direi di mettere come sottofondo proprio la musica di Edel Smith, ed è il concerto per violino e orchestra, primo movimento. Io la metto bassa bassa, così ci fa da sottofondo. Anche perché c'ho un po' di tosse, quindi avevo bisogno di tossire un attimo in separata sede. Dunque, dicevo che il direttore dell'orchestra ha scoperto, per esempio, che di lei non si parla nei programmi delle scuole di musica. Non c'è, non è menzionata, non esiste. Ha allargato allora la sua ricerca in tutta Italia ed ha scoperto che lei, nel nostro paese, in nessuna scuola di musica esiste alcuna traccia, non c'è proprio. Quindi ha toccato con mano quanto ostracismo si sia stato nei confronti di Ethel Smith. Sì, perché Ethel Smith, senza dubbio, è stata una compositrice molto brava. Come mai allora è così poco conosciuta? Questa omissione, questo silenzio, non sono certo dipesi dalla scarsità o poca bellezza delle opere da lei composte. Già il fatto di essere una donna ha significato per lei incontrare molte difficoltà, ma ahinoi, l'essere dichiaratamente e apertamente lesbica e femminista non l'ha certo agevolata. Insomma, il nostro caro direttore dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Rubens Gies, è quasi impazzito per recuperare gli spartiti. Pensate che gli ultimi sono arrivati dall'America 2 giorni prima del concerto, cosicché dei 4 movimenti programmati ne sono stati eseguiti solo 3. Le concertiste non hanno avuto materialmente il tempo di provare. Ed è sicuramente difficile ricordare qualcosa che, sottolineiamo nuovamente, era assolutamente sconosciuta perché inesistente in Italia. È stato proprio lì che è venuta la voglia di approfondire la sua conoscenza e, devo dire, anche noi abbiamo incontrato le stesse difficoltà del direttore Gies. In rete di lei esiste pochissimo e quello che si trova è ciò che di lei si narra raccontando la vita di altre. Ad esempio, è nominata perché ha avuto una relazione con la novellista irlandese Edith Somerville, oppure perché è stata amica della scrittrice Violet Paget. E poi perché ha avuto un'intensa amicizia con Virginia Woolf. Per il suo ruolo di compositrice è soprattutto ricordata e citata come l'autrice della Marcia delle Donne, diventato l'inno delle suffragette, che ricordiamo è il movimento di suffragio femminile inglese. Tutte le sue altre composizioni si perdono nel limbo del silenzio. Dunque, fatta questa piccola premessa, però, direi di andare per ordine. Intanto, nel frattempo, è arrivata Rosina. Buonasera. Una volta ha trovato parcheggio, non so dove, è tornata sotto casa a parcheggiare e poi sì, è tornata. Parcheggio più che talebano. Poi dicono che lanciano i San Pietri, fanno bene per procurarsi lo spazio del parcheggio. Questa è la verità. Comunque, cominciamo dal principio riportando quando all'inizio della nostra ricerca abbiamo trovato su di lei. Dunque, Ethel Smith nasce il 23 aprile del 1858 e muore l'8 maggio 1944. È stata una compositrice britannica e leader del movimento femminista delle suffragette, insignita dell'onorificenza britannica DBA che la suggellava come dama comandante dell'ordine dell'impero britannico. Questa onorificenza veniva attribuita a donne che si distinguono per meriti particolari e soprattutto in guerra. Francamente ci sembrava un po' pochino, ma noi abbiamo insistito, noi siamo caparbie, quindi abbiamo trovato altro. Nacque, come dicevamo, nel 1858, e questa è una cosa che ogni volta veniva ripetuta, nel Surrey, in una numerosa famiglia borghese, e infatti erano 8 fra fratelli e sorelle di tradizione militare. E suo padre era infatti generale maggiore dell'artiglieria reale britannica e mostrò sempre grande determinazione e forte personalità fin da piccola. Le prime lezioni di pianoforte le fecero capire immediatamente il suo grande amore per la musica e a 12 anni annunciò che avrebbe studiato al Conservatorio di Lipsia. Dunque, il padre cercò di bloccare tale passione, ma non aveva fatto i conti con la durissima personalità di Ethel. Proprio nel periodo della sua adolescenza, Ethel si ribellò a tali costrizioni. Si chiuse in camera sua, rifiutando il cibo e minacciando di non frequentare più la chiesa e qualsiasi altra persona. Questa determinazione di Ethel, dodicenne, fece sì che il padre cedette ritornando sulle sue decisioni. Le consentì di iscriversi al Conservatorio di Lipsia per studiare composizione. A 17 anni ha studiato con il maestro Alexander Ewing e al Conservatorio di Lipsia studia con Karl Reinecke. Bene, io sono una poliglotta provetta. E poi, privativamente, con... Von Herzogenberg, un nome un po' difficile, ma sembra che lui fosse uno straordinario maestro. In quanto alla caparbietà di Ethel, vorrei averla anch'io, perché chiudermi in casa va bene, ma evitare il cibo è più complicato. Continua tu, vai Rosina, vai. Comunque, come diceva Caterina, Ethel era davvero una donna di straordinario carattere e soprattutto la sua caratteristica peculiare era che era incline alle grandi passioni romantiche, specialmente fra donne, tant'è che l'unico amante che le si riconosce, in questo momento mi sfugge il nome, era un personaggio un po' particolare anche lui, e lei gli scrisse in una lettera, dice: sai, trovo molto più facile avere a che fare con le donne piuttosto che con voi altri individui di sesso maschile. Dunque, dicevamo, lei studiò in conservatorio a Lipsia. Durante quella permanenza ebbe modo di conoscere alcuni importanti compositori, come ad esempio Dvorak, famosissimo, notissimo adagio, meraviglioso, bellissimo, Grieg e naturalmente Tchaikovsky, ma fu anche in contatto con Clara Schumann e con Brahms. Di Brahms subì molto l'influenza, soprattutto per un importante suo lavoro, la messa in re maggiore che Ethel scrisse nonostante fosse profondamente atea nel 1891. Quindi tutta la sua opera in qualche modo fu influenzata da questo grande compositore. Tchaikovsky, che appunto aveva conosciuto negli anni del conservatorio la Ethel Smith, nel suo diario scrisse una sorta di ritrattino di questa donna straordinaria e ve lo riportiamo tradotto un po' così, però insomma vi dovete accontentare, il russo lo conosciamo poco, l'inglese altrettanto poco. La signora Smith è una delle poche compositrici che possano seriamente prendere in considerazione il raggiungimento di qualcosa di prezioso nel campo della creazione musicale. A Lipsia ha studiato molto e composto alcune opere interessanti, la migliore delle quali è una sonata per violino che ho sentito suonare in una esecuzione molto fine. È un lavoro molto promettente, il che mostra che ella ha il potenziale per diventare una compositrice molto seria. Altresì, dal momento che ella è inglese, non c'è da meravigliarsi della sua eccentricità. Questa giovane zitella, sottolineerei zitella, è inseparabile dal suo bel cane che ne annuncia sempre l'arrivo. È appassionata di caccia ed ha una incomprensibile, incredibile venerazione per Brahms. Questo la dice lunga su quanta simpatia potesse avere Tchaikovsky per Brahms e la sua musica. Oh, siccome ci piacciono i figli pelosi, i figli dell'altra specie, due parole sul cane di Ethel, che era un meticcio di San Bernardo, quindi un cane di piccola taglia, come ovvio, e si chiamava Marco e aveva lo stesso temperamento ribelle della sua padrona. Ma chissà come mai. Una volta aveva rovinato una prova musicale di Brahms in casa di Adolf Brodsky, entrando come un cavallone, immagino, nella stanza, rovesciò la scrivania di questo violoncellista e mise la stanza a soqquadro. Sembra che Brahms però non se ne ebbe a male, forse amava anche lui gli animali. E, oltre all'ammirazione per Brahms, Ethel provava un sentimento di grande simpatia, di amicizia per Tchaikovsky, che considerava un grande artista, un uomo colto, raffinato, e gli perdonava persino appunto la sua antipatia, di cui dicevamo prima, per la musica di Brahms. Nelle sue memorie, sempre a proposito del simpatico cane, la Smith si dice convinta che il compositore russo Tchaikovsky fosse segretamente terrorizzato da Marco, appunto il cane, anche se nelle sue lettere le chiedeva sempre notizie sulla bestiola e la chiamava il vostro caro cane. Ora immagino un cane 60 kg probabilmente, cagnolino che ha scritto il lago dei cigni. No, immagino questa bestia enorme nel Bolshoi fra le penne e le piume di questi animaletti simpatici. Vai, Caterina. Allora, continuando nel raccontare la storia di questo personaggio, dobbiamo dire che nell'estate del 1910 incontrò Emmeline Pankhurst. Il suo nome, più di ogni altro, è associato alla lotta per il diritto di voto per le donne nel periodo immediatamente precedente alla Prima Guerra Mondiale. E se avete un minimo di clemenza, noi adesso vorremmo farvi ascoltare una canzone che abbiamo tratto da un film, proprio perché il movimento delle suffragette è stato riportato e descritto in moltissimi film. Noi però ne abbiamo scelto uno particolarissimo, perché io, può darsi pure che abbia le traveccole, ma mi sembra che nelle frasi citate dalle attrici prima che la canzone che abbiamo scelto venga fatta, si nomini Smithy. Smithy era il nome con il quale Ethel Smith veniva chiamata dalle compagne e dalle altre suffragette. Io, può darsi pure, metteteci il beneficio del dubbio. Comunque questa è la canzone. Ascoltatela e ascoltate bene le parole prima, e poi continueremo con la storia di Ethel. La signora Banks sta arrivando. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Hip, hip, suffragette, urrà. Buonasera, Ellen e Tata Katie. Abbiamo fatto una splendida dimostrazione. La signora Winter Allen si è incatenata alle ruote della carrozza del primo ministro. Avreste dovuto vedere... Signora Banks, io vorrei parlare un momento. E si è fatta trascinare in prigione cantando e lanciando manifestili addosso. Sono felice che sia tornata. Io ho sempre fatto tutto quello che ho potuto. Oh, grazie, Tata Katie. L'ho sempre saputo che eri con noi. Veri soldati in gonnella, siamo del voto alle donne e gli alfieri, siamo. Ci piace l'uomo preso tu per tu, ma il governo lo troviamo alquanto scemo. Signora Bell! La cieca tene noi spezzeremo e tutte unite combatteremo. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marcia, suffragette a noi. Ovunque stiano le cose, non desidero offendere, ma io non... Non puoi arrestarci, o maschio, son finiti i tempi tuoi. È un solo grido unanime, femmine, a noi. Ben presto anche in politica a seguire ci dovrai. Se il voto ancor ci neghi, per te saranno guai. Siamo pronte al peggio, anche a morire ormai. Chi per il voto muor, vissute assai. Femmine, a noi! Senti, ti permetto di dire una parola, signora Day. Alla cieca tene noi spezzerem e tutte unite combatterem. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marcia, signora Day! Marcia, signora Day! Signora Banks! Suffragette, urrà! Cosa c'è, Tata Katie? Signora Banks, se permette, devo dire... Allora, a parte Mary Poppins, che spero l'abbiate riconosciuta, noi non volevamo assolutamente essere dissacranti, però... Proprio sì! Però ci sembrava carino metterla un attimino per alleggerire la trasmissione. Comunque, stavo dicendo che nel 1910 Ethel incontrò Emmeline Pankhurst, che era praticamente la leader del movimento per il suffragio delle donne. E quindi Ethel si unì alla Women's Social and Political Union, e l'anno seguente compose la sua Marcia delle Donne. Marcia delle Donne, che magari nella versione quella non dissacrante di Walt Disney stiamo mandando ora nel sottofondo. Diventa, come dicevamo, l'inno del suffragio femminile più famoso. Nel 1912 questa organizzazione delle suffragette organizzò una nuova campagna che consisteva nel rompere le vetrine dei negozi. Smithy, come dicevo prima, come veniva chiamata dalle suffragette, prese parte a questa attività e fu arrestata, rimanendo per 2 mesi nella Holiday Prison. Fran Abram, giornalista investigativo, scrittore che realizza documentari per la BBC e scrive anche per The Guardian ed altri giornali, racconta: Ethel organizzò sport atletici in prigione e fu decorata con i colori delle suffragette. Si narra che quando Thomas Beckham, il più influente direttore d'orchestra e compositore britannico della prima metà del XX secolo, andò a visitarla, trovò le suffragette marciare nel quadrilatero che cantavano, mentre Ethel Smith, inclinata su una finestra, conduceva la marcia con uno spazzolino da denti. Questa marcia. Allora, nel 1941 l'Inghilterra dichiarò guerra alla Germania e furono sospese tutte le attività politiche. Il 10 agosto il governo annunciò la liberazione delle suffragette e in cambio queste si diedero da fare per il successo della guerra. D'altronde Ethel, come diceva prima Rosina, fu soggetta a grandi passioni romantiche, la maggior parte con donne per la verità. Scrisse a Henry Brewster, Brewster, io so, che era più facile l'amore per me verso il mio stesso sesso piuttosto che la passione verso il vostro. A 72 anni si innamorò di Virginia Woolf, che, allarmata e divertita, dichiarò ironicamente che era come essere catturate da un granchio gigante. Non male, sai che bella polpa. Vai. Dunque, quindi, quando Ethel conobbe Virginia, abbiamo detto aveva 72 anni, quindi era una donna molto anziana, ma era anche per l'epoca, per i canoni dell'epoca, anche oggi non è che sei proprio giovanissima a quell'età, comunque, visto che questo è un paese in cui si invecchia mai. Era però una donna brillante, molto piena di vitalità e per Virginia fu un'amica straordinaria, con la quale poteva parlare di tutto, delle sue paure, dei suoi segreti sessuali più reconditi. Virginia era una donna con una problematica, insomma, che tutte sappiamo, non staremo qui a ripetere quali fossero i suoi problemi, le sue fragilità. Con Ethel Ray riuscì a parlare di tutto, della sua infanzia, degli abusi che subì durante l'infanzia, dei suoi propositi di suicidio. Immagino che le abbia parlato anche di quando sentiva gli uccelli cantare in greco nel giardino. E Virginia scrisse a proposito di Ethel: a volte è un sollievo incontrare un animale primitivo come Ethel, un elefante solitario che non obbedisce al gregge. Questo la dice lunga su che cosa poteva sembrare, che cosa poteva apparire una donna come Ethel di fronte ad una personalità così particolare come Virginia. Dobbiamo dire che nonostante Ethel fosse così profondamente invaghita, così profondamente innamorata di Virginia, Virginia però non ricambiò mai questo amore, seppure invece avesse per Ethel un affetto profondo, spiccato. E di lei diceva che si confidava appunto con lei più apertamente che con qualunque altra donna, parlando di sesso, di masturbazione ed altri argomenti che prima non era mai riuscita a nominare. E la influenzò così tanto che addirittura decise di inserire tra un atto e l'altro un personaggio della regista lesbica, che era appunto stato ritagliato sulla figura reale di Ethel Smith. Vita Sackville-West, che per un certo periodo fu amante di Virginia Woolf e poi ne divenne una grandissima amica, accusava Ethel di monopolizzare Virginia e nelle sue lettere la chiamava con malumore la tua intima Ethel, quindi mostrando tutta la sua gelosia. Insomma, Ethel rimase innamorata per un lungo periodo di Virginia. Alla fine anche questo sentimento un po' si acquietò, se si vede che era l'età, perché insomma cominciava ad avere anche intorno agli 80, e questo sentimento di amore così profondo invece divenne un sentimento di affetto. A 80 anni addirittura Ethel si innamorò anche di un'altra donna, ebbe un altro amore. Quando Virginia nel 1941 decise di annegarsi nel fiume House, Ethel scrisse a Vanessa Bell, Vanessa la sorella di Virginia, capisci, le scrisse, non è solo che io la amavo, Virginia, era che la mia vita si basava letteralmente su di lei, era il continuo, emozionante contatto con una mente geniale. E poi aggiunse all'atere, credo però che abbia deciso con saggezza la propria fine. Quindi le dà questo riconoscimento postumo della saggezza di Virginia. 3 anni più tardi, nel 1944, anche Ethel muore a 86 anni, quindi un'età piuttosto ragguardevole. Per concludere un po' questa carrellata su questa donna straordinaria, vorrei riportare una quota, una citazione, una sua frase con la quale lei si descriveva. Una sua descrizione, un'autodescrizione. Un'autodescrizione, diceva di sé: perché ho diretto da sola le mie opere e per il mio amore per i cani pastori. Perché di solito vesto in tweed e talvolta ai concerti nei pomeriggi d'inverno ho diretto vestita così. Perché ero una suffragetta militante e ho avuto l'occasione di dirigere la marcia delle donne dalla finestra della mia cella nel carcere di Holloway con uno spazzolino da denti. Perché ho scritto libri, fatto discorsi, parlato in trasmissioni e non essendo sempre sicura che il mio cappello fosse dritto. Per questi e per altri motivi altrettanto pertinenti, in un certo senso si può dire di me che io sia ben nota. E questa era Ethel Smith. Oh, a questo punto io direi di fare una piccola pausa musicale, poi leggerai per cortesia. Introdurremo la nostra ospite. Ecco, esatto, la nostra ospite. Io nel frattempo cerco di litigare un po' meno con il telefono e vediamo di fare questa telefonata in diretta. Perfetto. Oh, adesso mandiamo Scancanensis con il brano Because of You. Because of you, the tears dead in my eyes will freeze until I'm blind. The ice, the gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you, to feed my heart while summer blows and it burns my disappointment. allora rieccoci in onda. Caterina vi aveva promesso una ospite graditissima, si tratta appunto di Nerina Milletti. Non ci sarebbe bisogno di presentarla, ma lo faremo lo stesso. Buonasera Nerina. Ciao, grazie di essere qui. Ti facciamo una brevissima presentazione. Intanto diciamo che abiti a Firenze e che dal 1976 hai partecipato al Movimento delle Donne, a partire dal 79 a quello lesbico. Hai cominciato a studiare la storia lesbica e pubblica nel 94 sulla rivista DVF. Hai pubblicato una ricerca dal titolo Analoghe sconcezze sulla rappresentazione delle lesbiche nelle scienze antropologiche e psichiatriche italiane ai tempi di Lombroso. Sempre in quegli anni hai pubblicato articoli su Queer Babilonia in Italia e anche, perdonate la pronuncia, sull'European Journal of Women's Studies e per l'Encyclopedia of Lesbian Histories and Cultures di New York. Nel 2000, proprio per questa enciclopedia, hai compilato il settore dedicato all'Italia. Nel 96 invece sei stata docente alla Scuola Estiva di Storia delle Donne, nel 1998 all'Università Gay e Lesbica d'Estate. Presentato i tuoi lavori ai congressi della Società Italiana delle Storiche nel 95 e nel 2010, così come al Simposio Estivo di Storia della Conflittualità Sociale nel 2005, e questi tuoi lavori sono stati presentati anche al Convegno di Storia Historicing the Lesbian di Dublino nel 2006, al Congresso della Società Canadese di Italianistica a Venezia nel 2011. Insieme a Luisa Passerini hai curato il primo libro dedicato alla storia italiana del lesbismo del XX secolo, Fuori dalla norma, storie lesbiche nell'Italia della prima metà del Novecento, che è uscito nel 2007, e una serie infinita di contributi in altri volumi. Will Survive, bisognerebbe fare una trasmissione solo su di te. Esatto, una trasmissione tutta su Nerina Milletti diventa troppo complicato. Nerina, noi stasera abbiamo parlato, tu forse ci hai sentite per radio, di Ethel Smith. Non ti chiederemo di parlare di Ethel Smith, della quale tu anche ti sei occupata, però quello che ci premeva invece sapere, proprio grazie al lavoro che tu fai, se ci potevi un po' parlare proprio del tuo lavoro e di quanto sia difficile oggi reperire il materiale su queste donne, sulle lesbiche, sulle donne dimenticate, insomma, non è così facile come può esserlo invece per altri soggetti. Tu fai questo lavoro da moltissimi anni di ricerca, di approfondimento. Ci vuoi raccontare qualcosa di quello che studi, di quello che fai? Ma intanto volevo precisare che se ho fatto così tante cose è perché ho una certa età, è per questo che non riuscito a farne tante, non perché sia particolarmente brava, ma insomma in tutti questi anni insomma è chiaro che le cose appunto si fanno. Riguardo alla difficoltà di trovare il materiale, io credo che sia più una questione di carenza di ricerca in questo campo, perché il materiale in realtà, se si cerca, alla fine in qualche modo e si ha qualche vaga chiave per sapere dove andare a trovarlo, in realtà qualcosa si trova. Ad esempio di Ethel Smith ci si può arrivare, come ho fatto io, attraverso diciamo Vernon Lee, della quale mi ero occupata, sì, perché aveva abitato a Firenze, oppure ad esempio attraverso Virginia Woolf, oppure attraverso la storia del suffragismo inglese. Quindi sono tante diciamo vie che portano a questo personaggio, che anche questo è particolarmente, tra virgolette, facile da indagare, proprio per i personaggi che aveva frequentato, per il fatto che aveva scritto le sue memorie. Memorie lunghissime, tra l'altro. In questo caso diciamo è abbastanza facile. Per l'Italia invece è più difficile, perché non abbiamo una controparte simile, o perlomeno non sappiamo che esistesse una controparte simile a Bloomsbury, diciamo a quel giro di signore che andava da Virginia Woolf a Redcliffe Hall, a Vita Sacred West e così via. Quindi è proprio, ci mancano proprio le basi sulle quali poter costruire, ma ripeto, perché la ricerca fino all'altro ieri diciamo è stata fatta così, in modo volontaristico, per motivi più che altro politici, se vogliamo. Cioè, sì, come se il lasciare una traccia insomma, come fuori se dall'università. Dicevo, Nerina, scusami se ti interrompo, come se il lasciare una traccia di donne che hanno segnato in qualche modo la storia fosse superfluo e inutile, no? Ed è per questo che il tuo lavoro a noi ci sembra particolarmente importante. Ci vuoi mettere a conoscenza anche alle ascoltatrici dove si può trovare il tuo materiale? Dove possono consultarlo? Ma dunque, a parte il mio materiale, ma diciamo, quindi le cose che ho scritto io, ma ci tengo molto a far conoscere questo progetto che si chiama Le Swinky e che è diciamo un sito web dove è possibile trovare del materiale riguardante diciamo sia la cultura lesbica ma anche la rappresentazione delle lesbiche sia nelle scienze che nella letteratura, ed è un progetto al quale io tengo molto perché oltre che a essere diciamo veramente già molto ricco come quantità proprio di documenti, si va dai famosi articoli di Eden Rich a quelli appunto di Lombroso del 1800, insomma, romanzi o racconti in cui ci sono diciamo delle storie di amori tra donne. Ma è bello come progetto perché è un progetto collaborativo e io credo che adesso insomma ci abbiano lavorato almeno una trentina di persone, chi ha tradotto degli articoli, chi li ha trascritti, chi li ha scelti, chi ha scritto invece ha fatto delle ricerche originali come quella diciamo delle lesbiche nelle canzoni, nelle canzonette italiane dagli anni 70 a ora. Quindi diciamo è veramente un progetto di grande respiro, molto ricco, e vuole essere diciamo il frutto del lavoro di tante che mettono a disposizione un pochino del loro tempo per diciamo per un progetto collettivo anche quello, insomma. Quindi questo Le Swinky è veramente una cosa alla quale tengo molto e vorrei che tutte quante contribuissero a trascrivere, a scansionare articoli di convegni, tutto quel materiale che è sostanzialmente adesso indisponibile a chi vuole fare una ricerca ora, perché sarebbe impossibile ritrovare i volantini, ritrovare gli atti, certo, di convegni, ritrovare l'articolo magari pubblicato in una rivista che ora non esiste più, insomma. Certo. Quindi, ascolta, noi l'input l'abbiamo dato, però per ritornare al discorso principale della serata, che era quello su Ed Smith, io nelle varie ricerche che abbiamo fatto su internet praticamente abbiamo trovato alcune parole che tu avevi citato che avevi raccontato di Ethel parlando di due violette che erano state a Firenze. Aspetta, e l'aspetto, sì, che a me interessava molto era la contestualizzazione storica, cioè non è che l'Italia fosse poi tutto questo splendore e fosse così attraente per il quale poi venivano in Italia questi personaggi. Tu fai notare la contestualizzazione, parli del processo che c'è stato ad Oscar Wilde, quindi se ti va di fare una piccolissima, perché il tempo, tu sai, in radio è sempre tiranno. Sì, no, ma molto velocemente, evidentemente l'Italia invece attraeva queste donne, che è molto più facile studiare le donne diciamo straniere, proprio perché è più famosa, perché hanno lasciato cose scritte. Tra l'altro c'è una tradizione anche di raccolta di carteggi, di biografie, eccetera, che qui in Italia manca totalmente, perché le donne non pensano a lasciare le loro lettere all'archivio di Stato come dovrebbero invece fare, ad esempio. quindi è più difficile la ricerca sulle italiane, però studiando questi circoli di donne che venivano qua, che voglio dire, se già hanno abitato da Redcliffe Hall a Natalie Barney, tanto per fare l'esempio di Firenze che conosco meglio, a Violet Trefusis, a Vernon Lee, quindi c'è c'era invece un grande movimento, e da questo si potrebbe risalire alle amicizie che frequentavano, alle donne italiane anche che conoscevano, ecco. Ma senza parlo di Firenze, ma anche a Roma c'era una colonia di scultrici americane, a Capri nei primi del Novecento c'era Romaine Brooks, insomma basterebbe un pochino dedicarsi e studiarle queste vite e queste vicende. Guarda, veramente ne sapremo molto di più, ecco. Allora, i nostri prossimi SMS li teniamo tutti quanti da parte, Nerina, hai visto mai? li teniamo e poi faremo magari affidamento sulle cose che tu hai ricercato, così per ulteriori trasmissioni più avanti. Va bene. Ti ringrazio, ti ringraziamo. Io ringrazio voi. Di aver partecipato e magari prossima, ci risentiremo, allora. Insomma, ci risentiremo presto, ti sfrutteremo un pochettino prossimamente, va bene? D'accordo. Ok, allora, grazie, ti ringrazio. Ciao. E allora conservate i vostri SMS e non li buttate, scrivete tanto, mandateli, riportate tutto ciò che vedete. A questo punto mi sento due occhi di Bragia sulla schiena, esatto, quindi è il caso di lasciare questi microfoni alle donne che verranno dopo di noi, e quindi noi ci lasciamo per questa sera. È stato un piacere stare tutte quante insieme, ci risentiamo con la nostra sigla giorni. Finale, ci sentiamo fra 15 giorni. Grazie a Nancy Amore che ci ha supportato in questa nostra andare. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got